Il telegolpe dal nascondiglio racconta, bussano alla porta, che faranno emozioni, all'ultima ora, boom, elicotteri vigilano sulle masse, gli studenti si preparano, ancora un appello alla prudenza, un'altra settimana di lotte, il rientro avverrà in massa, festoso movimento. Si avrà il grande confronto, scontro con la polizia in alcune città, manifestazioni di protesta. Le masse si stringono in piazza per l'intera giornata. I manifestanti hanno tenuto, stanotte verrà la fine del mondo. Salgono i prezzi, scende la lira. La lotta per la salvezza è tutta una farsa. I veri responsabili non ci sono.